Buonasera a tutte, a tutti e a tutto. Io mi chiamo Anna Iraia, ringrazio il Gabrio per questo invito alla Biblioteca Autogestita Goliarda Sapienza, Filo Sottile e Grace Painelli per essere qui con me questa sera a parlare di Audre Lorde. Allora, abbiamo portato qualche copia del libro che è lì su quel banchetto, quindi poi se volete si può sfogliare, guardare e anche acquistare. Io vi dico due parole su chi sono io e perché sono qui a raccontarvi di Audre Lorde e poi entriamo nel merito dell'autrice. Allora, io faccio parte di un collettivo che si chiama Ippolita e effettivamente noi eravamo qui al Gabrio anche a settembre perché c'è stato l'HAC Meeting. E io sono di Milano, classe 1978, ho 44 anni, ho fatto Genova 2001, sono di quella generazione lì e quindi sono molto legata allo spazio degli Hack Club e di Hack Meeting perché vengo anche da quel retroterra culturale. Ippolita di fatto è un collettivo femminista che si occupa di tecnologie digitali e lo facciamo dal 2005 più o meno. Nel senso che nel 2005 abbiamo scritto il nostro primo libro per una casa editrice di area libertaria che si chiama Eleutera, una casa editrice di Milano. E lì anche ci siamo formati come, diciamo, attivisti culturali, perché in Eleutera facevamo le magazziniere, organizzavamo le fiere, imparavamo ad impaginare i libri e quindi siamo diventate delle maestranze dell'editoria. Con Ippolita abbiamo cominciato a scrivere dei libri vari utilizzando la formula del collettivo, nel senso che anche poi quando siamo diventate più grandi abbiamo continuato a riunirci come collettivo e a essere di fatto un collettivo politico e non ci siamo mai costituite nemmeno in associazione culturale, non abbiamo ancora oggi, a quasi 20 anni di distanza, continuiamo a essere semplicemente un collettivo. Questo però ci ha permesso di formarci all'interno dell'esperienza autogestita e di continuare a sviluppare anche l'esperienza e la capacità all'interno dello spazio dell'editoria. A un certo punto abbiamo incontrato la casa editrice Meltemi e la casa editrice Meltemi ci ha detto: ma perché non fate una collana di libri? Perché non vi sperimentate un po' in questo campo editoriale leggermente più ampio? Allora, siccome ci sembrava interessante perché aveva a che fare anche con parte delle nostre capacità professionali, abbiamo voluto sperimentarci in questo ambito un po' più allargato, però abbiamo scelto di fare una collana che non fosse solo dedicata alle tecnologie digitali, ma che aprisse a quello che era stato l'insieme della cultura di cui ci siamo nutrite nell'esperienza dei centri sociali degli anni 90 sostanzialmente, per cui a partire dalla filosofia post-strutturalista ai femminismi, alle controculture, e quindi la collana che ne è venuta fuori è stata una collana che noi chiameremo controculturale, ma che oggi si dice meglio intersezionale, e anche se è un termine, come dire, un po' accademico, probabilmente rende bene l'idea dei fili tesi tra una disciplina e l'altra, quindi di una collana che non ha nessuna voglia di essere all'interno di un campo disciplinare preciso, ma che ha bisogno di spaziare. In questo spazio di potere, di fatto, che è una collana di libri, noi abbiamo cercato di immaginarci che cosa servisse al movimento oggi. E questo non perché volevamo essere semplicemente un service di movimento, ma perché volevamo stare in interlocuzione con un movimento che è anche molto cambiato rispetto a quello che abbiamo praticato noi, anche perché le nuove generazioni di femministe sono molto diverse da quelle precedenti e sta tutto migliorando molto ed è una figata e noi siamo super contente. E una delle grandi novità di questo movimento è sicuramente l'idea di un movimento che è aperto alle esperienze delle nuove generazioni di femministe che sono anche afrodiscendenti. Questo nuovo femminismo non è solo un femminismo bianco, è un femminismo che cambia, che si dice transfemminista, e noi speriamo che questa pratica del transfemminismo ovviamente continui e si approfondisca. E siamo molto felici che questa che questo cambiamento, che questo moto di rivoluzione, questo Big Bang che non ha mai smesso di esplodere, stia ancora, quindi non abbia ancora finito di emanare l'esplosione. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato sulle genealogie femministe, abbiamo lavorato su delle genealogie che fossero intersezionali e allora abbiamo messo insieme da principio bell hooks. Forse alcuno di voi hanno visto la trilogia sulla scuola che abbiamo pubblicato, che è Insegnare a trasgredire, Insegnare comunità e Insegnare il pensiero critico. E lì, come dire, c'è un approfondimento sul tema dell'apprendimento anche fuori dalla scuola e su come si fa ad apprendere anche nelle comunità politiche, che è uno degli argomenti su cui bell hooks insegna di più e che a noi è molto caro. E poi siamo andati avanti proponendo anche Audre Lorde e Gloria Anzaldúa. Perché queste tre femministe americane? Perché effettivamente rappresentano un passaggio di testimone da una generazione con l'altra. Ne mancherebbe un'altra all'appello che non abbiamo nella nostra collezione, ma che è importante citare, che ovviamente è Angela Davis, e che però sta girando nel movimento perché viene pubblicata, ripubblicata, tradotta, e quindi sono anche lei in circolo insieme alle sue sorelle. Allora, la più anziana di queste è senz'altro Audre Lorde, perché Audre Lorde era del 43, è la più anziana di tutte, avrebbe 80 anni oggi Audre Lorde, ed è straordinario vedere come le sue parole siano assolutamente contemporanee, sembrano scritte ieri, è assolutamente attuale dentro il nostro dibattito. Dopodiché c'è Gloria Anzaldúa, che è una messicana, chicana, ed era una compagna di collettivo di Audre Lorde, nel senso che loro insieme hanno fondato una casa editrice indipendente, autogestita, che si chiamava Kitchen Table Press, cioè la casa editrice fatta intorno al tavolo della cucina, perché ovviamente la loro esperienza era un'esperienza di grande povertà e mancanza di denaro, e hanno fondato insieme una casa editrice che potesse pubblicare autrici BIPOC, per cui Black, Indigenous, People of Color, e che quindi potesse tenere insieme quelle differenze che loro riuscivano a far reagire chimicamente e politicamente. L'ultima in realtà è bell hooks, che è la più giovane. È la più giovane, è quella che ci trasporta all'interno degli anni Ottanta e che fa fare tutto un altro passaggio invece al movimento. È importante per noi che il progetto, diciamo, politico-culturale della collana venga anche un po' inquadrato in questo senso, nel senso che queste autrici non sono isolate, ma parlano tra di loro, si citano e si raccontano le une con le altre. Questo è importante anche come pratica politica, forse, che come femministe dobbiamo cercare di tenere a mente quando lavoriamo su la parola scritta. Audre Lorde prevede che ognuna di noi sia in grado di dirsi qual è il proprio posizionamento. È molto difficile leggere Audre Lorde senza farsi una domanda rispetto a chi si è dal punto di vista del genere, della classe e della razzializzazione. Perché il testo Sorella Outsider, come anche tutta la sua collezione straordinaria di poesie, è molto duro. Non è un testo di tutto riposo, è un testo che può fare male, fa molto male. Fa molto male soprattutto se si è delle donne bianche, quindi non approcciatelo alla leggera, non pensate che per esempio il vostro essere lesbiche vi possa mettere al sicuro nella lettura, nel confronto con Audre Lorde, perché non è così. Audre Lorde riesce a essere una lama molto tagliente che recide, che se non siamo in grado di metterci in discussione può farci male. E quindi, insomma, quando sono arrivata qui stasera e ho cercato di condividere con le altre anche un po' di timori rispetto alla serata, perché non è semplice. Noi abbiamo fatto questa scelta come collettivo Ippolita di in qualche modo cercare di restituire alle donne nere parte della loro eredità culturale, perché fare dei libri, fare delle collane di libri, come dicevo all'inizio, significa esercitare un potere, bisogna essere consapevoli di questo potere. E quindi quando abbiamo avuto tra le mani questi testi così preziosi, abbiamo cercato delle compagne nere con cui condividerli. E per quanto riguarda Belux, abbiamo lavorato con Magda Gebremariam Tesfau, abbiamo lavorato con Rael Sereke, abbiamo lavorato con Rahma, di cui in questo momento Nur, e infine con Esperance, che è una torinese acuzzimana che forse qualcuno di voi conoscerà. Siamo andati avanti con questo lavoro anche rispetto ad Audre Lorde e abbiamo continuato a lavorare con Rael Sereke, e quindi troverete all'interno del libro un'introduzione di una donna lesbica nera, italiana, afrodiscendente. Quello che abbiamo cercato di fare è stato rendere noto che lo spazio del libro è uno spazio dove si giocano dei poteri, e questi poteri vanno usati, questi poteri vanno messi in esercizio. Non dobbiamo fingere che questi spazi non ci siano, che, come ci esorta a fare Audre Lorde, le differenze non ci siano. Dobbiamo invece vederle queste differenze e porle nel dibattito. E infine poi Gloria Anzaldúa, che invece apre a tutta la questione della frontiera, a tutta la questione del Messico, sulla quale, insomma, che non è il topic di questa serata, ma che è altrettanto interessante. Vediamo se mi sono persa qualcosa di importantissimo, e in effetti è così, perché come introduceva la compagna del Gabrio, questo testo non è un testo che noi abbiamo tradotto ex novo. Questo è un testo che già era nei circuiti del movimento, nei circuiti underground, perché il testo era stato tradotto per Il dito e la luna nel 2014 da Margherita Giacobino e proprio da Marta Gianello Guida, di cui abbiamo letto questa poesia. È un testo quindi che ha attraversato, è un testo conosciuto, è un testo che è stato molto letto e molto amato, ma forse oggi per la prima volta abbiamo la possibilità di discuterlo con una nuova generazione di afrofemministe, di femministe nere. Possiamo dire questa cosa in Italia, non è sempre stato così. E quindi credo che questo elemento sia un elemento da valorizzare. Credo anche che sia importante che Audre Lorde, come dicevo, non sia non rimanga soltanto nei nostri circuiti lesbici. Credo invece che sia molto importante condividere Audre Lorde anche con le donne non cisgenere, con le transfemministe. Credo che sia importante che lavoriamo in una dimensione, come direbbe Audre Lorde, nella casa delle differenze, dove ognuna di noi è all'interno di uno spazio di discussione e questa differenza rappresenta una ricchezza per tutto il movimento femminista e transfemminista. Io avrei ovviamente mille altre cose da dire, però mi riservo di intervenire dopo e vi invito naturalmente a una circolarità e a chiacchierare insieme a noi stasera. Grazie. Vabbè, io inizio ringraziando tutte le persone che sono qui, il Gabrio e la Biblioteca Golerda Sapienza che ci ospita e ovviamente che ha permesso che questi testi mi arrivassero, ci arrivassero, perché per me è stato un modo di ritrovarmi. Io sono Grace, qualcuno mi conosce già, compagno insomma di avventure e lotte. Nella vita sono tante cose, lavoro con le parole, faccio la copywriter e sono un attivista femminista e antirazzista principalmente, e poi insomma tutta l'intersezionalità che ne deriva, o almeno insomma ci stiamo lavorando. E io non mi dilungo e vorrei iniziare leggendo la prima poesia che c'è in questo testo, che è ancora in realtà nell'introduzione, perché secondo me in questa poesia c'è tanto, e soprattutto in una frase, che poi anche la frase finale, c'è un mondo di senso molto importante. Per quelle di noi che vivono sul margine, ritte, sull'orlo costante della decisione, cruciali e sole. Per quelle di noi che non possono lasciarsi andare al sogno passeggero della scelta, che amano sulle soglie mentre vanno e vengono, nelle ore fra un'alba e l'altra, guardando dentro e fuori e prima o poi allo stesso tempo, cercando un adesso che dia vita a futuri, come pane nelle bocche dei nostri figli, perché i loro sogni non riflettano la fine dei nostri. Per quelle di noi che sono state marchiate dalla paura come una ruga leggera al centro delle nostre fronti, imparando ad avere paura con il latte di nostra madre, perché con questa arma, questa illusione di potere, essere al sicuro, quelli dai piedi pesanti speravano di zittirci. Per noi tutte, questo istante, questo trionfo, non era previsto che noi sopravvivessimo. E quando il sole sorge, abbiamo paura che forse non resterà. Quando il sole tramonta, abbiamo paura che forse non si alzerà domattina. Quando abbiamo la pancia piena, abbiamo paura dell'indigestione. Quando abbiamo la pancia vuota, abbiamo paura di non poter mai più mangiare. Quando siamo amate, abbiamo paura che l'amore svanirà. Quando siamo sole, abbiamo paura che l'amore non tornerà. E quando parliamo, abbiamo paura che le nostre parole non verranno udite o ben accolte. Ma quando siamo zitte, anche allora abbiamo paura. Perciò è meglio parlare, ricordando che non era previsto che noi sopravvivessimo. Vabbè, un pezzo molto molto intenso, e io vorrei focalizzarmi sull'ultima frase: non era previsto che noi sopravvivessimo. In questa frase c'è tantissimo di Audre Lorde, della sua vita, della sua poetica, ma c'è anche tantissimo delle persone sia razzializzate sia le persone che vivono, no, nel margine, che sono messe al margine. Innanzitutto, non era previsto che noi sopravvivessimo è un po' un ricordo, no, di tutto quella che l'origine delle persone afrodiscendenti, perché la maggior parte delle persone afrodiscendenti, soprattutto quelle che insomma non sono più in Africa, nella madre terra degli antenati, molte di queste persone, le loro famiglie, i loro antenati, le loro antenate hanno dovuto subire il colonialismo. Sono state persone che sono state schiavizzate, deportate, obbligate al lavoro, obbligate a non essere più umane, no? Una disumanizzazione messa in atto dal razzismo e dal colonialismo. E quindi essere vive oggi, no? Essere riuscita a sopravvivere alle traversate dell'oceano, essere riuscita a sopravvivere a tutte le persone, no, che hanno invaso i territori, che hanno cercato di schiacciare le popolazioni, è una vittoria, fa male perché significa avere comunque un passato doloroso, e anche se non l'abbiamo vissuto in prima persona, il trauma, no, si tramanda a tutta la discendenza, e quindi noi comunque lo percepiamo. E Audre Lorde, che era afroamericana, originaria di un'isola, cioè i genitori originari di Grenada, un'isola dei Caraibi, ancora di più. E quindi questo per dire che noi ritroviamo in questa frase tanto di quello che hanno vissuto molte delle persone afrodiscendenti, ma anche tanto di quello che poi ritroviamo, no, nella poetica di Audre Lorde, perché lei parla di riconnessione, no, del sentire. E il sentire, no, è un po' rientrare in contatto con le regioni più profonde del nostro essere, no? Cercare, no? Scavare, cercare, riappropriarsi. Ed è la stessa cosa che lei fa, c'è un capitolo del libro dove lei va, no, nell'isola dei suoi genitori, un'isola che è all'80% fatta di persone nere che erano state deportate, schiavizzate e obbligate, no, a lavorare nelle piantagioni. E lei torna per, no, ricucire la sua storia, ricucire il suo passato, il passato dei suoi genitori, dei suoi nonni, no, delle persone prima di lei. E la stessa cosa fa con la poesia, perché lei cerca dentro, no, nel suo profondo, quello che lei chiama, no, il sentire, ma anche, no, l'erotico, no, qualcosa che è dentro, che è profondo e che è potente. E lei lo ricerca. E a un certo punto fa questa differenza. Vediamo se trovo la frase. I padri bianchi ci hanno detto, penso quindi sono. La madre nera dentro ognuna di noi, la poetessa, sussurra nei nostri sogni. Sento, quindi posso essere libera. La poesia coglie il linguaggio per esprimere e trasportare questa richiesta rivoluzionaria, la realizzazione di quella libertà. E quindi lei, la sua concezione di poesia è una concezione, no, che va al di là dello studio, delle cose accademiche, no, che è fatta di un sentire, ma non per questo irrazionale, no, di un sentire. Lei dice che la razionalità non è niente senza un sentire profondo, non ti porta da nessuna parte se non riesci, no, a riconnetterti. E quindi riconnettersi con quello che è il nostro passato sicuramente è un modo anche per riconnetterci con noi stessi. E in secondo luogo la sopravvivenza, no, per Audre Lorde è una concezione in cui io mi rispecchio molto, perché lei parla di sopravvivenza come, no, corpi marginali, fuori dalla definizione di giusto, di accettabile, no? E quindi lei dice che sopravvivenza significa anche imparare, no, a essere soli, a essere soli e sole, solo, rifiutate, sgradite, insultate, tantissime cose che io credo che non solo le persone razzializzate, ma tante altre persone hanno dovuto subire, con le quali hanno dovuto, no, condividere, ma ce l'abbiamo fatta, siamo ancora qui, no? E anche questa la sopravvivenza, ritrovare quell'amore che ci fa sopravvivere, ci fa andare avanti e ci fa unire per riuscire, no, a fare una causa comune e costruire insieme un mondo, no, nel quale poter stare bene, o perlomeno nel quale sentirci un po' meglio. E quindi sì, in una sola parola, in una sola frase della sua poesia, per me c'è tantissimo veramente della sua vita, del suo percorso, ma anche, no, della mia vita, del mio percorso. E credo che un po' è questa anche, no, la sua forza, la sua potenza, riuscire a portare il suo personale a un livello così ampio, così strutturato e profondo, nel quale, no, uno ci si rispecchia. Ogni tanto fa bene, ogni tanto fa male, perché poi ogni tanto ti prende a schiaffi. E io come donna nera in questi testi mi ci ritrovo e faccio, no, un po' pace con quelle parti di me che sono stata abituata a negare, no? Dalla rabbia, dalla frustrazione, no? Audre Lorde mi prende per mano, no? E mi riporta in salvo, mi dice, no, che sono tutti sentimenti validi, che quindi io sono valida. E questo, no, si sente nei suoi scritti di questo testo, si sente nelle sue poesie, e da un lato fa male, dall'altro però è veramente, no, un'ancora di salvezza. Thank you. Ciao a tutti, tutte e tutte. Vabbè, sono Filo, Filomena. Molto di voi mi conoscono, per cui sembra brutto farla lunga. Sono una bibliotecaria, sono una scrittrice, sono una pancastorie, nel senso una cantastorie punk. Basta. In quasi 30 anni di disonorata carriera sui palchi, così ho fatto tante cose. Stasera forse mi scapperà di farne una che non ho mai fatto, cioè di piangere, perché con... E qui contestualmente ringrazio Collettivo Ippolita e Anahi che mi hanno coinvolta in questa presentazione, perché io con questo testo ho questa copia in mano da 20 giorni, l'ho appesantita, cioè ci ho messo un'intera matita grafite di sottolineature e commenti, pesa sicuramente di più di quando mi è arrivato e appunto ci ho fatto tante cose, ci ho fatto la lotta, ci ho pianto e ci ho fatto mille riflessioni. E, ho 20 pagine di appunti perché ho il timore di non riuscire a tenere la barra dritta, ma siccome sono ipovedente probabilmente non li guarderò. E, sorella outsider, volevo partire da questo titolo. Lei, Audre Lorde, si colloca donna nera, lesbica, madre, femminista, sono tutte maniere di essere fuori, di stare un passo fuori dal consentito, dal normale, dall'accettato. E quindi mi sono trovata a fare questo gioco anch'io, perché la potenza di questo testo non è solo nelle cose che dice, ma nelle cose che ti costringe a fare. E io mi sono sentita costretta, benevolmente costretta, anche se in qualche passaggio con violenza, ma una violenza che ho accettato, a fare delle cose, a fare dei ragionamenti, a interrogarmi e a interrogare anche le persone che mi stanno accanto. Mi sono trovata a contare anche io in quante maniere sono outsider, e quindi sì, mi sono trovata terrona, mi sono trovata trans, non binaria, genitore. E a volte nei contesti di attivismo transfemminista, nei contesti froci, essere genitori non è la cosa più semplice del mondo. E non voglio fare lo sfigometro, no? Dico quanto sono, ma è fare una mappa e capire dove sono per poter mettermi in contatto con le altre persone, perché e con le persone diverse da me, con le persone diverse da me che sono reali o potenziali, cioè già nel presente o potenziali alleate, perché a me sembra che uno dei fili rossi che lega i 15 saggi di questo libro sia proprio questo, è una delle, cioè quello di mettersi in contatto, una delle parole che più ricorre. Forse sarebbe carino con un PDF fare un control F e vedere quante volte c'è questa occorrenza, la parola unità, sulla quale lei fa un ragionamento. Unità non è omogeneità e non è unanimità, quindi non non siamo tutte persone uguali all'interno dell'unità, e non siamo tutte d'accordo perché abbiamo percorsi diversi, sensibilità diverse, attitudini diverse. E su questa cosa ci ragionò un sacco e ci costringe a questionarci, a farci delle domande, a chiederci quanto siamo in ascolto delle persone alleate o potenziali alleate, delle loro differenze, quanto siamo al corrente dei loro differenti vissuti, delle loro diverse sensibilità, e quanto siamo in ascolto. E l'altra cosa che ci chiede è quanto ci lasciamo andare alla rabbia di non sentirci invece ascoltate all'interno del contesto che potrebbe essere, no? Casa, sfamiglia allargata, no? Il movimento, no? Quella roba lì. Quanto ci sentiamo legittimate a lasciare libero corso il dolore che talvolta ci viene inflitto e che se non viene sfogato, anche questa è una differenza, è un'osservazione molto sottile che lei fa, la differenza fra dolore e sofferenza. Dice: il dolore è qualcosa che ti capita, è un episodio, è un evento. La sofferenza è il silenzio in cui cresce quel dolore che non sfoga. E quindi, no? Io credo che questo lavoro, che questo libro sia estremamente utile, sia doveroso leggerlo per fare questo lavoro, e così forse all'interno del movimento potremo smettere di chiederci perché sono così poche le persone nere e o razzializzate che lo attraversano, e magari potremo smettere di chiederci perché le persone con disabilità sono così poco presenti. Forse i maschi cis etero potranno cominciare a chiedersi perché le altre soggettività sembrano così assenti o meno protagonisti, no? Quindi è un libro che ci fa fare palestra, ci fa sudare. Però anche io mi ci sono ritrovata tantissimo, sebbene io sia una persona bianca, perché attraverso alcune notazioni, alcune descrizioni che fa di fenomeni che sembrano essere dell'esperienza delle persone nere, io ho ritrovato alcune cose che invece sono anche dell'esperienza delle persone trans. C'è tutto un discorso sulla visibilità e lei dice è della visibilità che abbiamo bisogno, e in quel passaggio intende della relazione, dell'essere riconosciute come esseri viventi degni di vivere, e questa è una cosa, no? È un'esperienza che capita anche alle persone trans, no? Che non è prevista la nostra esistenza, non ci siamo nei programmi della sanità pubblica, non ci siamo nei documenti, in tutta una serie di cose. Contemporaneamente, lo dice Audre Lorde ed è valido anche per le persone trans, quella stessa una certa visibilità, il fatto di apparire in un certo modo, di saltare all'occhio, è anche motivo di dolore, di sofferenza e tante volte anche di morte, no? Il fatto che i nostri corpi siano riconosciuti come qualcosa di diverso. C'è un altro è il terzultimo capitolo, il titolo completo non lo ricordo, comincia con guardarsi in faccia ed è il capitolo che ho fatto più fatica a leggere di tutti, perché lei, Audre Lorde, si chiede da donna nera perché tante volte le sia più facile entrare in relazione con delle donne bianche che con delle donne nere, e mette in... mette in questione proprio il comune vissuto e anche il razzismo interiorizzato che fa sì che nella tua sorella, nella tua alleata, a volte invece vedi un tuo nemico e vedi l'obiettivo facile, no? Su cui sfogare la tua rabbia. Leggendo questa cosa io ho sentito che quella roba lì faceva parte della mia esperienza con altre persone trans, no? Quelle che dovrebbero essere le mie sorelle, i miei fratelli, il mio sibling, no? Persone che condividono un vissuto comune pur nella estrema differenza delle esperienze, però a volte c'è... Quella rabbia che non riesco a sfogare con le persone cis si va a incistare lì. Quindi comincio con queste cose, mi sembra che ho già parlato abbastanza. E allora, tanta roba, eh? Noi non ci siamo preparati, ovviamente, ok? Stiamo andando assolutamente a braccio. E quindi io ascolto per la prima volta esattamente come voi e rispondo come potreste rispondere anche voi. Quindi vi invito a farlo con noi, a stabilire un po' una circolarità in questa chiacchierata che facciamo. Io vengo da un retroterra economico molto povero. Vengo dalle case popolari di Niguarda, che è un quartiere a nord della città di Milano. E quindi vengo da una famiglia povera. E questo, come dire, questo posizionamento mi ha permesso di riuscire ad approcciare questo testo di Audre Lorde, cercando di intercettare alcuni frammenti di quello che lei dice. La mia esperienza, per quanto sia un'esperienza proletaria sempre più celata, sempre più nascosta, di cui sempre meno si parla, perché della questione della classe si parla sempre meno ovunque, comunque non è un'esperienza che mi pone... nella comprensione di capire che cosa significa sopravvivere. Perché per quanto io sia vissuta in una casa dove non c'era sempre il riscaldamento, in una casa dove alcuni pezzi venivano proprio giù, dove c'erano delle tempestate, dove il marciapiede era tempestato perennemente di vetro e di scritte di merda neofasciste, comunque non ho mai rischiato la vita. Ho rischiato altre cose sicuramente, ma non ho avuto la sensazione di rischiare la vita, perché vivevo in un quartiere molto molto povero, ok? Questo pone una differenza rispetto al nostro posizionamento razza, classe, genere, ed è un elemento di cui tener conto. E soltanto quando noi riusciamo a lavorare un po' sull'aspetto dell'autocoscienza riusciamo a lavorarci davvero, cioè solo quando siamo disposte a posizionarci, ma anche a metterci da parte, a non fare la gara chi è più sfigata, sfigato, ma sfigata soprattutto in questo caso. Ma riusciamo in realtà a fare uno slittamento, a spostarci, a guardare con, da un'altra prospettiva e a metterci in una posizione di ascolto. Questa posizione non deve essere però una posizione di, diciamo, viziata dal senso di colpa, perché se, come dire, incorriamo nel problema del senso di colpa, a quel punto l'ascolto l'abbiamo già bel che perso. Occorre che noi facciamo questo esercizio, e solo se lo facciamo insieme e lavoriamo, adesso ci vuole bell hooks, solo se lavoriamo sull'autoformazione riusciamo a mettere in scacco, a mettere nel sacco il senso di colpa e a porci in una dimensione di ascolto che ci mette in discussione senza spappolarci. Cioè dobbiamo stare in una zona che non è una zona di comfort necessariamente, e che però non è nemmeno una zona dove ci spappoliamo completamente le emozioni. Dobbiamo riuscire a fare un po', forse chi arriva dal Brasile direbbe un po' di gioco di cintura. Dobbiamo riuscire ad oscillare, dobbiamo oscillare. Questo è l'unico modo per rimanere in un equilibrio dinamico, secondo me, almeno per quella che è la mia esperienza, che ci permetta di entrare in relazione con un testo come quello di Audre Lorde, ma anche con l'esperienza delle persone nere e delle persone non cisgenere. Non sapevo che fossi una bibliotecaria, perché Audre Lorde è stata una bibliotecaria per buona parte della sua vita. Quindi questo è proprio incredibile, deve essere stata una... Visto che abbiamo tre cose in comune, la cecità, la bibliotecaria e non è però. Allora... aggiungo solo un elemento e poi ripasso un po' il microfono a chi ha voglia. Audre Lorde era anche socialista, è una cosa che non, di solito non viene ricordata. Ma Audre Lorde non era una compagna solo per tutto quello che abbiamo detto, ma anche proprio perché aveva delle simpatie comuniste. Tant'è che lei questo lo dichiara più volte, lo troverete anche nel libro, e a un certo punto in chiusura troverete anche degli appunti da un diario, un diario di un viaggio che lei fece nel 75 in Unione Sovietica. Lei venne a un certo punto contattata dal sindacato degli scrittori sovietici, scrittori e poeti sovietici, per fare un lungo viaggio in Russia che comprendeva Mosca e poi l'Uzbekistan, per incontrare, diciamo, la cultura sovietica e mettersi in relazione. Lei naturalmente cercava anche una sponda rispetto alla situazione delle persone oppresse negli Stati Uniti, delle persone nere oppresse negli Stati Uniti. Non trovò in Unione Sovietica una possibilità reale di interlocuzione, e si trovò anche lei, come molti, a fare una critica anche al modello sovietico, nonostante ci siano tantissime cose che la lasciano meravigliata e che lei continuerà ad amare dell'Unione Sovietica. Il diario si apre proprio con lei che dice: non riesco a smettere di sognare Mosca, soprattutto non riesco a smettere di sognare un sistema sanitario gratuito. E quindi lei in realtà riesce anche a essere molto leggera e ironica quando vuole. Quest'ultimo pezzo di diario noi l'abbiamo appositamente spostato in fondo a chiusura dei suoi interventi politici, e comunque, insomma, ci illumina anche un Audre Lorde socialista che è bene ricordare, perché così la avvicina ancora di più alla nostra esperienza. Sempre su questa scia, no? Partendo un po' da quello che dicevi adesso, dall'apertura, no? Di filo, quindi Audre Lorde, donna nera, lesbica, madre, anticapitalista, eccetera. Era tante cose, e sicuramente la sua grande capacità è stata riuscire a rendere ciascuna di queste cose politica ed estremamente potente. E però in alcuni dei suoi scritti, no, lei dice che alle volte si è trovata, no, obbligata a mettere in ombra alcune parti del suo essere, no? E quindi magari all'interno del movimento femminista dover mettere da parte, no, il suo essere nera, no, il suo essere antirazzista, e viceversa all'interno della comunità nera trovarsi in grave difficoltà in quanto lesbica e in quanto femminista con gli uomini neri. E secondo me questo è estremamente attuale, no, per quello che stiamo vivendo e per quello che io personalmente sto vivendo. E vi faccio un esempio, cioè io in un'una di meno faccio parte del tavolo razzismo, nel comitato italiano antirazzista faccio parte del tavolo genere, cioè che dici, non so, a me fa ridere ma anche riflettere, nel senso che c'è qualcosa che non va, no, queste cose non sono ancora riuscite a sovrapporsi. Il problema che metti in luce Audre Lorde, ma dopo di lei lo metti in luce anche Velux, è che spesso si va a finire che nel movimento femminista noi come donne nere, quindi con specifiche oppressioni delle donne nere che non sono quelle delle donne bianche, cioè alcune sono le stesse però altre no, finiamo per scomparire, diventare invisibili. Però la stessa cosa ci succede dall'altra parte, quindi nel movimento antirazzista noi lottiamo per delle cause, diciamo, universali, ma nella specificità dell'essere persone razzializzate, dell'essere donne, di nuovo scompariamo. E questo alla fine ci rende, sì, magari delle persone attive, delle persone con ideali, delle persone che credono, no, nella lotta e nel cambiamento, ma non riusciamo mai a mettere in campo noi stesse a tutto tondo, a 360 gradi, siamo sempre e ancora, no, obbligate, cioè lo scriveva Audre Lorde, quanto, 40 anni fa, però oggi in Italia è la realtà delle cose, sì, cioè ancora non riusciamo a essere, no, visibili e avere una voce politica chiara come donne e come persone razzializzate insieme, come donne razzializzate. E questo è un problema, perché come si fa a definirsi intersezionali se no non si riesce a comprendere che le istanze delle donne nere sono istanze femministe, ma comunque sono specifiche, quindi no, sono da ascoltare, da accogliere. E secondo me spesso ci ritroviamo, no, a porci la domanda, no, come mai non ci sono persone razzializzate? Cosa possiamo fare per le persone razzializzate, per le donne razzializzate? Quando io credo che la domanda dovrebbe essere: come metto in discussione la mia bianchezza? Cosa significa essere bianca, bianco, biancu al giorno d'oggi, e come gestisco, no, questo mio privilegio? E quindi, cioè, lei qui ne parla chiaramente anche in uno dei suoi saggi, quello "Non smantellerai la casa del padrone con gli strumenti del padrone", e lei parla di quello, nel senso che il patriarcato è un sistema oppressivo complesso, quindi non è impossibile distruggerlo, minarne le fondamenta, se non comprendiamo, no, tutto quello che nutre questo sistema oppressivo, dove c'è il razzismo, dove c'è l'omofobia, dove c'è la transfobia e tutte, insomma, questi meccanismi che rendono alcuni corpi centrali e altri, no, marginali. E questo, se vi sembra un modo forte come lo dico io, fidatevi, non è niente, perché Audre Lorde usa delle parole molto nette, molto potenti, che effettivamente sono degli schiaffi. Cioè, prima Anai diceva bisogna essere pronti. Sì, bisogna essere pronti, perché se io vi sembro dura e diretta, comunque nel libro lei è molto più dura e molto più diretta di così. Però secondo me è necessario, ed è necessario ovviamente parlarne insieme, perché secondo me si può comprendere, no, le differenze e renderle una forza senza per forza dover arrivare, no, a uno scontro, il che è difficile perché ascoltare veramente è difficile nel momento in cui ti senti messo in discussione come persona, perché dici no vabbè, ma anch'io vivo delle oppressioni, no? È vero, però non tutti viviamo le stesse oppressioni e quindi ci va un lavoro, ed è un lavoro faticoso per riuscire veramente a comprenderle. E questo, beh, lei nel libro ne parla verso le femministe bianche, anche in un altro saggio parla di questa femminista che nel suo decostruire Dio come figura le dice: se Dio è uomo, allora no, l'uomo è Dio, e parte da questo assunto, e poi parla di alcune divinità, bla bla bla. E Audre Lorde fa: sì, ma perché hai citato soltanto, no, divinità occidentali? Perché non parli delle spiritualità africane, afrodiscendenti, no? E lei sostiene che un pensiero femminista senza accogliere, no, tutte quelle che sono le istanze e i pensieri delle donne nere, razzializzate, del terzo mondo e povere, non può reggersi insieme. Io credo che questo sia un esercizio di tutti, perché lei ne parla in questo libro soprattutto come donna nera, però io credo che anche una persona nera, una donna nera, debba fare questo esercizio nel confronto di altre soggettività. E quindi diciamo che sì, in questo libro lei ne parla così, però secondo me l'esercizio che dobbiamo fare tutte, anche noi persone razzializzate, è sempre quello, non di grocciolarci troppo, non il nostro io sono nero, ok, cioè l'ho passata, no, perché comunque ci sono altre soggettività e verso quelle altre soggettività noi abbiamo il dovere di metterci in discussione e di metterci in ascolto, così come pretendiamo, no, dalle persone bianche che ci ascoltino e si mettano in discussione. E quindi sì, è un esercizio continuo, come dico sempre, l'antirazzismo, ma anche il femminismo intersezionale, il transfemminismo non è una cosa che la studi oggi e ce l'hai, no, è un percorso che dura tutta la vita, sempre, non finisce. Sì, io riprendo questa cosa che hai appena detto. Dico che il femminismo, il transfemminismo, l'antirazzismo sono una tensione continua. Anche insomma, per me la pratica libertaria, l'anarchia, sono una tensione continua. Mi viene più facile dire che sono nella direzione del transfemminismo, nella direzione dell'antirazzismo, no? Mi sembra che sto camminando davvero in quella direzione, ci provo tutti i giorni, e rispetto a dire che sono transfemminista, no? Cioè non è qualcosa che ho raggiunto, è che è un lavoro che si fa quotidianamente e sia con se stessa e soprattutto con le altre persone. E per cui, boh, sì, mi piaceva sottolineare anch'io questa cosa. Invece, per dire quante cose è, già insomma, dalle parole che abbiamo prodotto fino a questo momento si capisce che questo libro è tante cose, però un po' lo accennava Grace nel suo primo intervento. Audre Lorde è stata anche poeta e il fatto di essere poeta è centrale nel suo lavoro, nel suo lavoro politico e nella maniera in cui scrive. Questi, sì, se ci piace possiamo dire che sono saggi, però sono dei saggi anche scritti in una maniera un po' strana soprattutto per l'epoca in cui sono stati scritti. Volevo fare riportarvi, condividere con voi la riflessione che le riflessioni esplicite, non soltanto implicite, di Audre Lorde sulla poesia, sull'uso della poesia, hanno fatto fare a me, partendo dalla etimologia della parola poesia. Ve lo dice una persona che non ha fatto il classico e quindi non sa il greco, però poesia viene da poiesis, fare, agire, produrre, per cui questa cosa che noi facilmente accantoniamo nella nostra vita di tutti i giorni come una cosa lusso di pochi, e lei lo dice esplicitamente, il titolo di uno di questi saggi, che la poesia non è un lusso ma è una necessità, ha a che fare con l'azione. Con quale azione, con quale trasformazione, con la trasformazione del silenzio, no? Delle cose che tacciamo per quieto vivere all'interno della nostra comunità, o nei confronti di quelli che più facilmente identifichiamo come nemici, nemiku, trasformare questo silenzio in linguaggio e azione, è il titolo di un altro suo, di un altro dei saggi qui raccolti. Audre Lorde ci dice che il silenzio, il tacere, il non lasciarsi andare alla rabbia, il non portare esplicitamente le nostre istanze, ammazza. Come minimo ci pone in sofferenza, ma in alcuni casi ammazza. Io tra l'altro anche di questa cosa ne ho avuto essendo una di quelle persone che ha fatto un coming out tardivo, però con la consapevolezza di essere una persona trans tipo da quando avevo 12 anni, l'ho sentito proprio che il silenzio non ti protegge da niente, e anzi ti mette in un pericolo particolare, no? Ti puoi godere dei privilegi, nel mio caso quello di apparire come una persona cisette, però ti espone a tutta un'altra serie di pericoli, suicidio, psichiatrizzazione, sofferenza psichica, eccetera. Quindi quel silenzio lì va trasformato, va trasformato in una maniera che sia comunicabile, condivisibile e maneggiabile da altre persone, in maniera che, no, non sia una cosa mia ma sia una cosa politica che ci coinvolge tutti. Lo si fa meglio con il linguaggio poetico, e su questa cosa ci fa una riflessione articolata, importante, che parte dal fatto che la poesia è l'arte più povera in assoluto, nel senso che non hai bisogno di niente. Cioè solo il canto, che però forse è anche quella una forma di poesia, è un'arte altrettanto povera, perché in tutte le altre cose serve qualcosa, non so, una matita, uno strumento, qualche cosa. Per fare poesia non sei sufficiente tu, ma la poesia è un linguaggio, ed è a partire da un linguaggio che esiste, il conio di un nuovo linguaggio, è un ponte che mette in connessione quel silenzio, il dolore che lo ha provocato, con le altre persone e con i bisogni che devono essere soddisfatti. Dice, aspetta che recupero la frase, che la volevo citare così com'è. Aspetta, no. Sì, se mi tieni questo per favore. Sì, grazie. Così nel frattempo la cerco. Dice che la poesia prepara il terreno all'accoglienza delle nostre idee più radicali. Questa cosa io l'ho sentita perché questo libro è tutto pieno di espressioni poetiche e è esattamente in quelle frasi lì, ma che sono anche i titoli di alcuni saggi, no? Trasformare il silenzio in linguaggio e azione. Uno che ho citato poco fa che non mi ricordo già, no? Però già lì, no? In quell'usare in maniera immaginifica, nel creare metafore che aprano nuovi immaginari, c'è l'accoglienza di qualcosa che deve ancora venire e di qualcosa di rivoluzionario che desideriamo. Io prego voi, soprattutto prego me, che tanti ne ho scritti, di fare il confronto fra i comunicati che scriviamo in comunicatese per le nostre iniziative e questa prospettiva di utilizzare il linguaggio per comunicare davvero, per entrare in relazione, per far parlare le nostre viscere, ma in maniera che siano comprensibili anche alle altre persone, con appunto quelle cose che scriviamo e che fanno cacare. Almeno ci siamo. Io direi che ci siamo. Vogliamo fare un giro e chiacchierare insieme? Sì. Io volevo fare giusto una domanda di approfondimento, diciamo, visto che non ho letto tutto il libro. E mi sembra che fosse stata Filo Sottile che aveva parlato del fatto che lei facesse una distinzione tra dolore e sofferenza, e quindi mi interessava proprio questa demarcazione. Raccogliamo un po' di... Grazie. Io volevo ringraziarvi e premettere che avere un microfono in mano è un problema per me perché soffro un sacco di ansia sociale, ma fare anche una riflessione sul consolidare i linguaggi, no? A me è venuto in mente un altro slogan di un'altra femminista, classe 42, di cui non ricordo mai il nome, perdonatemi, che è il personale politico, e mi è venuto in mente proprio quando tu parlavi di riflettere sul proprio posizionamento, e a me viene in mente anche un'altra parola che è privilegio, riflettere su ogni forma di privilegio che abbiamo anche in questa sala, in questo momento, il poter essere qui, per esempio. E appunto volevo chiusare così, probabilmente non è una caratteristica solo dei femminismi di terza ondata, quindi dei transfemminismi, dei femminismi intersezionali, la capacità di cogliere l'invisibilizzato. Forse sono proprio i femminismi come pratica, che era quello che poi dicevate in chiusura, no? Che ci consentono di continuare a cogliere le altre soggettività e che quindi rendono sempre attuale il discorso di Audre Lorde, come tanti altri discorsi che spero che faremo ancora, soprattutto in epoche dure come questa. Grazie mille. E poi, ultimissima cosa, senza assolutamente spostare l'attenzione dai femminismi afrodiscendenti o insomma da Audre Lorde, volevo chiedere qualcosa in più sulla Biblioteca Sapienza, perché io nel mio guscio di isolamento e letture l'ho scoperta ieri, di Goliard di Maria Giudice sono appassionatissima da anni, e quindi insomma se poi volete chiudere anche con qualche informazione, grazie. Brevemente su dolore e sofferenza, si tratta di un paragrafo all'interno del libro. A me per me è stato importante leggerlo, e non so dire molto di più di quello che ho detto prima, però appunto lei parla del dolore come qualcosa di episodico, eventuale, a cui siamo soggetti tutti in varie occasioni, in varie circostanze della nostra vita, e che no? Poi diventa parte della nostra esperienza, e per cui quando il dolore è metabolizzato diventa parte della tua vita ed è no, parte delle fondamenta su cui poggi poi le tue convinzioni, la tua esperienza e anche le cose belle, no? Sul dolore ci costruisci anche. E sulla sofferenza no, sulla sofferenza non c'è niente da costruire, perché la sofferenza, così come io ho interpretato che la interpreta Audre Lorde, la sofferenza è non metabolizzare, sia per le condizioni esterne, sia per quelle che sono dentro di te, non metabolizzare quel dolore, tenerlo dentro di te, tenerlo chiuso, non renderlo politico, non renderlo comunicabile. Quindi no, la cosa che lei dice è che dobbiamo essere capaci, imparare a stare nel dolore, ad affrontare il dolore, e dobbiamo evitare di stare nella sofferenza. Io l'ho intesa così. Io credo che sia stata Barbara Smith a parlare per la prima volta di intersezionalità, che era la, diciamo, la socia più grossa di Audre Lorde quando hanno fatto la casa editrice Kitchen Table Press. Però so che c'è anche un'altra afrofemminista che di solito è associata alla parola intersezionale, che è esatto la Kimberly Crenshaw, giusto? Ok, forse c'è qualcuna che sa dirlo bene e sa dire anche qualcosa in più, quindi io vi passo volentieri la parola. Volete dire qualcosa su questo? No. Se vuoi. Eccoci, grazie. Sto scrivendo la tesi, benissimo. Allora sì, Kimberly Crenshaw inizia a parlare di intersezionalità da un fatto accaduto nel 76. E praticamente un gruppo di donne afroamericane aveva fatto causa alla General Motors, mi sembra, perché non mi ricordo se erano state licenziate o non erano state assunte, comunque il vulnus era quello. E la corte americana disse no, perché la General Motors ha sia dei neri assunti che un sacco di segretarie donne assunte. Il fatto è che le segretarie erano tutte bianche e i neri erano tutti uomini. E da questo fatto nasce l'attenzione verso l'intersezionalità, che non è il semplice sommarsi delle differenze, quindi delle possibilità di discriminazione che ne conseguono, ma proprio il fatto che le differenze si sommano e diciamo il tutto è maggiore della somma delle parti. Grazie. Perfetto, grazie mille. Allora a questo punto noi vi ringraziamo e ci beviamo una cosa assieme. Grazie.